24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Roberta Pellegata e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Oggi in apertura il primo sì da parte dell'Europa alla revisione del trattato di Schengen e poi l'intesa tra Gran Bretagna e Italia per addestrare i ribelli anti-Gheddafi. Parleremo anche di nucleare perché dopo Francia e Germania anche l'Italia congela il progetto atomico. Roma, assicura il ministro Paolo Romani, vi rientrerà quando ci saranno parametri europei sicuri. E ieri rally dei listini del vecchio continente che hanno archiviato la migliore seduta dell'ultimo mese riscattandosi dalle pesanti perdite di lunedì. Ma partiamo, come annunciato, dal primo via libera dato dall'Europa alla modifica del trattato di Schengen dopo la polemica tra Italia e Francia. Il via libera dalla Commissione europea è previsto per il 4 maggio, ma il passo avanti di oggi, il documento approntato dai commissari, anche se senza alcun voto e con il solo dibattito d'orientamento, c'è. E di certo suona come un accoglimento tanto delle idee dell'Italia quanto di quelle francesi, qualcosa che appariva difficile da attuare. Non viene rivisto il trattato di Schengen, ma come questo trattato viene governato e soprattutto da chi? Sarà la stessa Unione Europea a farsi carico del problema quando uno Stato membro non rispetti i suoi obblighi di controllo della frontiera esterna o, ed è questo il punto che preme a Roma, quando una particolare porzione della frontiera finisca sotto inattesa e pesante pressione dovuta ad eventi esterni, il caso italiano, insomma. Ma c'è di più, e che questo all'Italia vada bene è un altro conto. Si prevede che la frontiera esterna possa in qualche modo arretrare quando un paese di fatto dichiara di essere al collasso di fronte alla pressione di un flusso migratorio incontrollabile. Ed ecco il caso francese. Nel documento, peraltro, il riferimento alle frizioni tra Roma e Parigi è evidente. Una risposta coordinata, vi si legge, accrescerà la fiducia fra Stati membri e ridurrà la necessità di iniziative unilaterali. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Italia e Gran Bretagna scenderanno in campo per addestrare i ribelli libici. Ad annunciarlo sono stati i ministri della difesa dei due paesi che si sono incontrati a Roma. Una decisione arrivata dopo un colloquio tra il presidente del Consiglio italiano Berlusconi e il premier britannico David Cameron. Anche l'Italia metterà a disposizione del Consiglio nazionale degli insorti di Bengasi, in Libia, 10 istruttori militari che provvederanno all'addestramento, così come farà la Gran Bretagna. L'annuncio è stato dato dal ministro della difesa Ignazio La Russa in una conferenza stampa congiunta con l'omologo britannico Liam Fox. Gli altri parlano, l'Italia e la Gran Bretagna invece agiscono, ha evidenziato Fox sottolineando i termini della decisione congiunta di Roma e Londra, che prevede anche altri impegni, come evidenziato dallo stesso sulla Russia. Dare la disponibilità agli aerei di rifornimento inglesi nelle nostre basi, il rifornimento in volo, estendere ove necessario la possibilità di accoglienza degli assetti della NATO nelle nostre basi. Anche la Francia ha dato il via libera all'invio di ufficiali di collegamento in territorio libico, ma la decisione di Roma, Londra e Parigi ha già provocato la reazione ufficiale della diplomazia di Gheddafi. Così la possibilità di una soluzione pacifica del conflitto si allontana, ha fatto sapere Abdulati Al-Obeidi, ministro degli esteri di Tripoli. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in Libia anche un giornalista è stato ucciso dai colpi di mortaio misurata e altri 3 sono rimasti feriti, uno in modo grave. Intanto riprendono a centinaia gli sbarchi a Lampedusa e per il ministro degli esteri Frattini si tratta della rappresaglia di Gheddafi. Ci sarebbe la mano di Gheddafi dietro l'ultimo maxi sbarco a Lampedusa. Come minacciato, il Rais avrebbe iniziato ad usare l'arma dell'immigrazione clandestina come ritorsione nei confronti dell'Occidente. Ne è convinto il ministro degli esteri Frattini, che ha incontrato Mustafa Abdul Jalil, presidente del Consiglio nazionale transitorio di Bengasi, il capo dei ribelli libici. Saranno loro a fornirne presto le prove, ha detto Frattini, anticipando che alla riunione del gruppo di contatto il 2 maggio a Roma l'Italia chiederà di definire una soluzione politica per il conflitto libico. La nostra proposta è che siano le Nazioni Unite a coordinare la transizione politica per evitare iniziative assolutamente scoordinate. In Libia i morti finora sarebbero 10.000, i raid della NATO non bastano, ha detto Jalil, che ha incontrato anche Napolitano e Berlusconi. Il capo dei ribelli libici ha voluto rassicurare sul fatto che, appena possibile, gli accordi politici ed economici con l'Italia verranno rispettati e gli immigrati saranno fermati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sulla resistenza di Gheddafi pesa il comportamento della comunità europea internazionale, secondo l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Sul caso Libia pesa l'insostenibile leggerezza della comunità internazionale. All'inizio si è fatto fuoco e fiamme con i caccia dei francesi, le bombe degli inglesi, i missili degli americani. Sembrava che Gheddafi fosse ormai condannato a fuggire dalla sua roccaforte di Tripoli. Giorno dopo giorno, mentre le forze di Bengasi venivano inchiodate nel deserto tra la Cirenaica e la Sirte, l'entusiasmo si è spento e con il passaggio delle operazioni alla NATO si è ingranata la retromarcia. Gli americani, sempre meno interessati alla Libia, hanno lasciato gli aerei a terra e anche il bellicoso Sarkozy ha abbassato le penne. Di armi e ribelli se ne parla con sempre minore convinzione, di colpi decisivi al Rais non se ne vedono e neppure si pronosticano improbabili fughe del Rais libico. Si moltiplicano però le conferenze, gli incontri multilaterali e bilaterali, le parole si sprecano, ma Gheddafi è ancora lì. L'ONU, la NATO e un corteo di medie e grandi potenze stanno facendo una ben magra figura al cospetto di un tetragono beduino nato nella Sirte 69 anni fa. Voltiamo pagina. Dopo Francia e Germania, anche l'Italia congela il progetto nucleare. Dopo il sì della Camera, anche il Senato ha approvato l'emendamento del governo per lo stop al programma atomico. Roma rientrerà nel nucleare quando ci saranno parametri europei sicuri, ha detto il ministro dello sviluppo economico italiano Paolo Romani. Lo ascoltiamo. Innanzitutto una partecipazione a pieno titolo alla costruzione europea dei nuovi standard. In secondo luogo una presenza industriale legittimata da una filiera esistente in Italia e che si stava preparando a un suo rafforzamento. In terzo luogo, uno sforzo scientifico di approfondimento delle soluzioni avanzate per il nuovo nucleare europeo. Quindi il quadro di compatibilità nucleare per l'Italia potrà essere chiaro solo dopo questi passaggi. È questo già un motivo ampiamente sufficiente per rinunciare oggi all'impostazione data nel 2009 e a rinviare una decisione così importante al chiarimento complessivo in sede europea. Ma qual è il quadro degli approvvigionamenti di energia italiano, ossia quanto ammonta la nostra dipendenza dall'estero? Sentiamo. L'Italia ha consumi di energia elettrica per circa 337.601 gigawatt-ora. È il fabbisogno nazionale lordo ed è ricavato dalla somma di ogni singolo impianto di produzione e il saldo degli scambi con l'estero. Se si escludono i consumi imposti, si ha un consumo nazionale netto di 320-268 gigawatt-ora, con un decremento del 5,6% nel 2009 sul 2008. Si usa meno energia perché c'è stata una riduzione dei consumi industriali. La necessità energetica è stata coperta nel 2009 per il 67,3% con le centrali termoelettriche che bruciano principalmente combustibili fossili, in gran parte importati dall'estero. Di questi, piccole percentuali, inferiori al 2%, sono a biomassa. Il 19,6% arriva invece dalle rinnovabili, per un totale di energia elettrica di produzione nazionale lorda di 292.641 gigawatt-ora. Il resto è importato dall'estero, e cioè equivale al 13,3%. I dati sono riferiti al 2009. Secondo quelli provvisori del 2010 c'è un incremento dell'energia proveniente dalle rinnovabili pari invece a circa il 22%. L'aumento del peso delle rinnovabili è determinato da una crescita della produzione idroelettrica e da una crescita sostenuta dell'eolico e del fotovoltaico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo in Italia e parliamo dell'audizione di Giulio Tremonti in Commissione Finanze alla Camera. Tra altre cose, il ministro dell'Economia italiano ha parlato del decreto Parmalat e così ha risposto alla domanda se in questo modo si rischia di scoraggiare gli investitori esteri nel bel paese. Per quotare una società di 80 milioni, i costi di quotazione sono 8 milioni. È una follia. Cioè, il solo fatto del costo operativo, tra spese di revisione, di stamperia, di pubblicità, legali, è assoluto. Quando si dice poi il peso dei servizi e le barriere nell'economia, mica le fa solo lo Stato. È giusta l'idea di attrarre. Allora, l'attrazione non si fa dicendo o no pro o contro l'italianità. L'attrazione si fa offrendo un regime che compatibilmente con la moralità e la legalità sia effettivamente attrattivo. E andare in borsa in Italia in questo momento, se ti costa l'8% del valore di capitalizzazione, magari non lo fai. Quindi c'è un sacco di riflessioni da fare. Chiusura in deciso rialzo per le borse europee che hanno archiviato la migliore seduta dell'ultimo mese. A trainare i listini sono stati i comparti auto e tecnologia. I listini nel vecchio continente sono stati trainati dalla pubblicazione di risultati trimestrali sopra le attese. Londra ha chiuso con un guadagno del 2,13%, Francoforte con un più 2,86%, Parigi ha segnato un rialzo del 2,46%. Più contenuta Piazza Affari con il FTSE MIBA più 1,19% e il FTSE All Share più 1,18%. In una giornata all'insegna degli acquisti per l'Europa, a Milano hanno tenuto banco i titoli degli istituti di credito che hanno chiuso in netta controtendenza rispetto al più 1,2% segnato dal FTSE MIB. A guidare le vendite è stata la Popolare di Milano, in calo dell'8,5% dopo l'annuncio di una ricapitalizzazione fino a 1,2 miliardi di euro, importo maggiore rispetto a quanto atteso. Secondo gli operatori, i recenti annunci di aumenti di capitale, prima di BPM è stata la volta di Intesa San Paolo, Bibanca e MPS, stanno alzando la soglia minima dei requisiti di solidità patrimoniale richiesti dal mercato alle banche. I riflettori sono puntati in particolare sul Banco Popolare, che ha perso quasi il 5%. Recentemente, però, il consigliere delegato Pier Francesco Saviotti ha dichiarato che la banca non ha bisogno di un altro aumento di capitale. Per contro, chiuso in netto rialzo Fiat, più 4,6% nel giorno di pubblicazione della trimestrale che ha battuto le stime degli analisti, ad eccezione dell'utile netto. Il titolo ha beneficiato anche del buon andamento del comparto auto, che ha guadagnato il 4% in Europa. Bene anche i tecnologici, dopo i conti di IBM e Intel, che hanno trainato al rialzo ST, più 4,8%. Livia Zancanera da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. La cronaca adesso con la maxi truffa italo-spagnola nel settore del fotovoltaico. Riduzione schiavitù, con questa accusa sono stati arrestati soci, amministratori e capi cantiere della società italo-spagnola Tecnova, con sede a Brindisi. In manette 5 persone di nazionalità spagnola, 2 colombiani, un ghanese, una donna cubana e un marocchino, che devono rispondere anche di estorsione e truffa ai danni dello Stato. La direzione distrettuale antimafia di Lecce contesta loro di aver impiegato cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno, favorendo la loro permanenza irregolare in Italia, mantenendoli in una condizione di totale asservimento, sottoposti a turni di lavoro massacranti, sottopagati o addirittura non pagati del tutto e senza il versamento dei contributi. L'impresa, che ha le proprie dipendenze quasi 800 persone, ha realizzato 17 impianti fotovoltaici nel Salento. Nei giorni scorsi i lavoratori erano scesi in piazza a Lecce per chiedere il pagamento degli stipendi. Adesso la Tecnova è stata posta sotto sequestro e i beni di 4 degli arrestati congelati per coprire i costi dei contributi previdenziali mai versati ai lavoratori. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport, il belga Philippe Gilbert ha vinto la 75esima edizione della Freccia Vallone di ciclismo da Charleroi al Muro di Huy, di 201 km. Con uno scatto imperioso a 300 metri dal traguardo, si è presentato da solo a braccia alzate, lasciandosi alle spalle gli spagnoli Joaquín Rodríguez, secondo già lo scorso anno, il campione olimpico Samuel Sanchez e il kazako Vinokurov, male alla fine gli italiani. Ed era l'ultima notizia per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie per l'ascolto e una buona giornata da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.